Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.11 e andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Abbiamo oggi Paolo Corleoni in regia la parte tecnica e come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo! Fegato, tutto quello che devi sapere per proteggerlo e mantenerlo sano. Fumare è come... Dalla Francia una campagna antifumo che fa discutere. Shatsu antireflusso. Sì, oggi parliamo del nostro fegato, un organo unico per importanza e per numero, quindi teniamolo da conto, perché non ci sono riserve in panchina pronte a farsi carico del suo lavoro, ma c'è un problema. Il nostro fegato è esposto a una grande varietà di attacchi e quindi è uno degli organi del corpo più frequentemente danneggiati. Allora oggi parliamo di tutte le situazioni che possono compromettere la sua salute, parleremo di alimentazione, di alcol, di comportamenti a rischio, ma soprattutto di infezioni che possono colpire questo organo. Mi riferisco all'epatite B e C in modo particolare, non esistono solo queste, ma diciamo sono le più diffuse. Oggi siamo sempre più consapevoli che a fronte dei progressi della ricerca e della medicina, che hanno permesso sicuramente di arrivare alla formulazione di farmaci più mirati, più efficaci, resta di primaria importanza il ruolo dell'informazione, che deve proprio metterci in grado di conoscere le regole di prevenzione e soprattutto deve farci capire quanto sia importante seguirle, perché non basta conoscerle, bisogna anche poi crederci. Allora, iniziamo a parlare del nostro fegato con una carta d'identità. Nome: fegato. Residente: parte destra dell'addome superiore sotto il diaframma. Aspetto: triangolare, globoso. Peso: circa 1,5 kg. Colore: rosso, giallo, arancione in caso di steatosi. Abitato da: epatociti, cellule biliari e cellule immunitarie. Funzione: la centrale metabolica dell'organismo. Segni particolari: non si lamenta mai e se ne tagli la metà ricresce come prima in circa un mese. Si rigenera. E adesso vediamo quali sono i suoi nemici. Obesità e grassi, se consumati in dosi eccessive. Alcolici e superalcolici. Piercing e tatuaggi fatti in maniera non idonea. Sesso non protetto. Alcuni farmaci. Frutti di mare e pesce crudo se infetti. Bene, abbiamo raccolto qualche informazione su di lui, ma intanto voglio presentarvi il nostro ospite che ci terrà compagnia fino a mezzogiorno e che ci farà da guida, il professor Antonio Gasbarrini. Bentornato, professore. Grazie, grazie a tutti. Professore associato di medicina interna all'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma e presidente della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia. Professor Gasbarrini, ci dia tre buone ragioni per pensare alla salute del nostro fegato. Beh, innanzitutto senza fegato non si vive, è un organo insostituibile, qualsiasi cosa mangiamo deve essere metabolizzata dal fegato, e cioè processata, trasformata e ridistribuita nell'organismo, e le malattie del fegato generalmente non fanno male, cioè non danno disturbi, non fanno dolore, e il grande rischio è che uno può trovarsi con un fegato molto danneggiato senza essersene accorto prima. Professore, allora giriamo intorno al numero 3. Tre domande per aiutarci a capire se il nostro fegato potrebbe essere a rischio. Beh, innanzitutto diciamo la cosa più comune: siamo in sovrappeso corporeo, fattore di rischio per il cosiddetto fegato grasso. Abbiamo avuto nel passato dei rapporti, diciamo, con partner sessuali potenzialmente a rischio. Consumiamo più di 3 bicchieri di vino al giorno o facciamo uso di superalcolici, sono tutte condizioni che possono determinare un rischio per il nostro fegato. Professor Gasbarrini, c'entra anche l'età? Diciamo questo, che il fegato non invecchia in maniera particolare. Beh, meno male. Però se noi abbiamo avuto una vita, diciamo, un po' così tumultuosa, se abbiamo abusato con farmaci, se abbiamo bevuto un po' troppo, se siamo in sovrappeso, è ovvio che più passa il tempo, più il nostro fegato, diciamo, tra virgolette, invecchiando, fa fatica a rigenerare. Per cui le persone anziane sono più a rischio dei giovani. Allora, abbiamo tante buone ragioni per pensare al nostro fegato. 800 24 0024, se volete fare delle domande precise, farvi aiutare dal professor Gasbarrini a capire se il vostro fegato è potenzialmente a rischio e se ci sono delle strategie anche terapeutiche per farlo tornare in salute. mente, ma vorrei aggiungere anche, dopo tutte queste domande, carte d'identità, stimoli, che abbiamo dato anche un aggiornamento, perché si svolge in questi giorni a Roma la Settimana Nazionale delle Patologie, organizzata dall'Associazione Italiana Studio del Fegato, e ci sarà un grande concerto che vedrà dei cantanti molto famosi che prestano proprio la loro voce, la loro presenza per mandare dei messaggi soprattutto alle persone sane, professor Gasbarrini. Sì, assolutamente sì, perché noi dobbiamo considerare che come tutte le malattie non bisogna arrivare ad affrontarle a malattie realizzate, dobbiamo giocare sulla prevenzione. E calcolate che il fegato è un organo, come abbiamo detto, centrale, è un organo dove spesso, soprattutto i nostri ragazzi, possono avere, diciamo, comportamenti a rischio che lo possono danneggiare, perciò è fondamentale che noi mandiamo continuamente il messaggio di quali sono le condizioni di rischio e come fare a combatterle e soprattutto a prevenirle. E allora, musica e parole, tra l'altro oggi a Roma. Assolutamente sì, diciamo che con Lucio Dalla comincia oggi, domani sera c'è questo evento all'Auditorium della Conciliazione e abbiamo veramente avuto una risposta entusiastica da alcuni, diciamo, amici. Questo è il concetto dei friends delle patologie: Lucio Dalla, i solisti veneti, Alexia, Paola Saluzzi, ma veramente poi ci saranno tantissimi amici. Anche noi siamo rimasti stupiti dalla quantità di persone che direttamente o indirettamente hanno aderito a un progetto sul fegato. I malati di fegato sono talmente tanti che tutti noi, purtroppo, nelle nostre famiglie, tra i nostri conoscenti, abbiamo qualcuno che ha avuto problemi di fegato. 800 24 00 24, oggi il nostro numero verde parla di fegato, di comportamenti a rischio, ma vogliamo anche dare delle regole importanti per tutelarne la salute. 349 238 6666, se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. E adesso andiamo in Francia per parlare di una campagna antifumo che sta facendo discutere. Fumare è essere schiavi del tabacco, così recita lo slogan, e le immagini ritraggono ragazzi e ragazze nell'atto di simulare una fellazio. Abbiamo chiesto a tre esperti di commentare immagini, messaggi, manifesti e latenti della campagna. In linea con noi Oliviero Toscani, fotografo, autore di numerose campagne di forte impatto, la professoressa Rossella Nappi, ginecologa e sessuologa, e il dottor Giorgio Zuccaro, responsabile dell'osservatorio Alcol, Fumo e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Iniziamo a guardare le immagini con Oliviero Toscani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, cosa le dicono queste immagini? Non capisco bene a chi e per cosa serve questa campagna. Forse per quell'adulto che si fa fare la fellazio, non lo so. Credo che partire dal presupposto della sottomissione, che il fumo è sottomissione e la sottomissione è una fellatio, è sbagliato. Quindi è proprio la costruzione della campagna come atto di comunicazione è sbagliata dall'inizio, ma è sgrammaticata proprio, non ha senso. Poi visivamente non ha nessun impatto, trovo, è abbastanza banale, e quindi veramente non capisco l'utilità di una campagna simile. Peccato, un'occasione buttata via. È vero, grazie Oliviero Toscani, buona giornata. Bene, grazie a voi, arrivederci. Sentiamo ora il parere della professoressa Rossella Nappi, ginecologa e sessuologa all'Università di Pavia. Professoressa Nappi, buongiorno. Buongiorno a voi. Ho visto le immagini di questa campagna, Nicoletta, e ti dico francamente che sono rimasta un po' perplessa. Questo perché? Perché accostare il fumo di sigaretta alla sessualità orale, diciamo che non ha questo grande senso, soprattutto perché il sesso orale è un'espressione assolutamente normale della sessualità, fa parte del modo in cui uomo e donna scambiano e, perché no, anche si sottomettono reciprocamente a dare piacere e riceverlo in modo reciproco. E quindi io trovo che accostare una cosa così importante come il fumo e l'abitudine al fumo, noi sappiamo bene, affonda radici in altre cose della nostra modo di essere dipendenti, la notte dei tempi da sempre si è stata dipendenti da sostanze quali il fumo, e nello stesso tempo però della notte dei tempi si fa il sesso e anche il sesso orale e reciproco. Professoressa Nappi, grazie, buona giornata. Buona giornata a voi. E chiudiamo con il commento di un esperto che da anni è impegnato nella lotta al fumo, il direttore dell'osservatorio Alcol, Fumo e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità, il dottor Piergiorgio Zuccaro. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. diciamo, questo tipo di messaggi sono abbastanza ambigui, sembra quasi che si voglia in qualche modo attirare sempre l'attenzione, ma non è detto che poi i giovani capiscono il messaggio che si vuole mandare. È vero che il fumo crea dipendenza, crea un qualche legame, ma mi sembra che l'accostamento che è stato fatto non sia assolutamente pertinente. Diciamo che bisogna fare agire sui giovani in altri contesti, e per esempio limitando l'uso delle sigarette, i pacchetti di sigarette da 10, oppure facendo delle campagne che siano veramente mirate, in qualche modo incidere nelle scuole, non far fumare, insomma dobbiamo dare delle cose che interessano i giovani. Mi sembra che questo accostamento con il sesso sia poco importante, e anzi può anche essere un incitamento. Grazie dottor Zuccaro per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci di fegato insieme al professor Gasbarrini. Professore, abbiamo citato tra i nemici del fegato obesità e grassi se consumati in dose eccessive, alcol e superalcolici, piercing e tatuaggi fatti in maniera non idonea e sesso non protetto. E credo sia importante concentrare il nostro impegno nel mandare messaggi di prevenzione ai giovani. Due sono i temi problemi su cui vorrei concentrarmi: il consumo di alcol e superalcolici e il sesso non protetto. Iniziamo dall'alcol, professor Gasbarrini. I ragazzi assumono alcol in dosi eccessive. Sappiamo che il consumo e la vendita sono vietate al di sotto dei 16 anni, ma ci sono, la cronaca lo dimostra, c'è un consumo tra i giovani e i giovanissimi di alcol e superalcolici molto alto, e questo causa gli incidenti stradali e tutta una serie di problemi che tutti noi conosciamo. Ma stiamo al tema della puntata. Alcol in un ragazzo giovane, quale rischio comporta per il fegato? Ah, i rischi sono molteplici. Noi sappiamo attualmente che, diciamo, le bevande alcoliche nell'individuo sano, cioè nella persona che non ha malattie né di fegato né di altri organi, a una bassa dosaggio, diciamo, non sono dannose per il nostro organismo. Si dice un bicchiere al giorno per la donna, fino a due bicchieri al giorno per l'uomo. Questo però, se può essere vero per gli adulti, non è vero per i ragazzi. I ragazzi in particolare non hanno attivati e stimolati quegli enzimi che degradano il fegato, che lo, diciamo, lo trasformano in altre sostanze, e allora anche quantità molto basse di alcolici sono dannose. Per non cadere però in quello che potrebbe essere visto, diciamo, come un proibizionismo e quindi della trasgressione, diciamo che il ragazzo non deve mai superare il bicchiere di birra o il bicchiere di vino. E il concetto fondamentale è che purtroppo noi stessi ci stiamo adeguando, diciamo, alla mentalità anglosassone, cioè i ragazzi tendono a bere solo il fine settimana, il sabato, il venerdì sera, e a fare abuso non di un bicchiere di vino o di birra, ma di fare abuso purtroppo di superalcolici. E ora purtroppo vanno di moda, soprattutto tra gli adolescenti, questi cocktail di frutta e superalcolici, che sono assolutamente tremendi per il nostro organismo in generale, perché arrivano come dei missili, delle tossine per il fegato, che non è in grado di metabolizzarli, ed è vero che danno euforia, però contemporaneamente danneggiano il nostro fegato. Andiamo al sesso non protetto. Parliamo di giovani, ma anche delle persone che non sono più giovani. È un fattore di rischio importante per le malattie sessualmente trasmesse, ma anche per il nostro fegato. Professore, perché? Perché purtroppo abbiamo una serie di agenti virali, e qui abbiamo nominato prima il virus B e il virus C dell'epatite, che si trasmettono proprio con i liquidi infetti, e diciamo, attraverso un rapporto sessuale non protetto con una persona a rischio c'è questo potenziale rischio di trasmissione di virus. Per cui il concetto è, col partner, diciamo, non stabile, assolutamente adottare misure preventive, anche perché, parliamoci chiaro, questo non è che protegge poi solo dal virus B e dal virus C dell'epatite, ma in generale protegge da tutti quei virus che possono essere trasmessi proprio con rapporto sessuale. Quindi grande attenzione, anche qui non proibizionismo, ma assolutamente essere sempre protetti, non abbassare mai la guardia, perché è vero che noi adesso in Italia stiamo vedendo tra i ragazzi una riduzione della diffusione di questi virus, ma in realtà il pericolo rimane altissimo. Angela ci chiama dalla provincia di Modena, 824 0024. Buongiorno Angela. Buongiorno. Ci siamo qua, ci racconti. La mia storia è questa. Io ho scoperto casualmente un anno e mezzo fa di aver contratto l'epatite C ancora non so come. Fatto sta che si è iniziato subito, ho fatto una biopsia, mi hanno detto che era da iniziare subito una terapia a base di interferone. Sì. Fatta. Grazie a Dio mi sono negativizzata subito, nonostante il genotipo fosse uno di quelli cattivi, mi dicono, e la cura è durata 8 mesi infernali, dopodiché però abbiamo sospeso e dopo altri 6 mi hanno detto che era ancora negativa, quindi guarita. Quello che mi chiedo io è, dopo la guarigione, cioè, la prima domanda è: esiste una guarigione definitiva quando uno ancora dopo un anno dalla fine del trattamento è negativo, e dopo si può vivere una vita normale, quindi un bicchiere di vino è consentito, quindi si può fare tutto quello che fanno gli altri? Grazie Angela, bella domanda professor Gasbarrini, che ci permette di toccare tanti punti. Angela dice ad esempio una cosa: l'ho scoperto per caso, ancora oggi non so come abbia potuto prendere questa infezione. Capita così a molte persone? Purtroppo sì, purtroppo, dato che le vie di trasmissione diciamo che il rapporto sessuale è una delle vie di trasmissione, ma noi in realtà non sappiamo nella nostra vita quando possiamo essercelo preso. La signora mi sembrava una persona giovane, per cui c'è da dire che forse i classici fattori di rischio del passato, dei nostri genitori o nostri nonni, non li ha incontrati. Però diciamo che questa è la tipica dimostrazione di cui anche una persona sana che fa una vita normale tecnicamente ha un teorico rischio di andare in contatto con questi virus. Quello che è emerso dalla telefonata, e qui è molto interessante, è come, e questo capita spesso alle persone giovani malate di questo tipo di infezioni virali, la persona è molto consapevole, cioè sono malattie che proprio per la loro cronicizzazione fanno paura. Le terapie purtroppo sono efficaci, come abbiamo visto in questo caso, però sono terapie molto lunghe. Una terapia classica per il virus C dura fino a un anno, e quindi diciamo che le persone diventano molto consapevoli. La signora è stata fortunata, perché andava proprio in quella fascia di persone che hanno risposto bene alla terapia antivirale. 8 mesi di terapia, che lei ha detto che però ha definito un inferno. 12 mesi, quindi è una terapia molto impegnativa, e 12 mesi è una terapia che dà tutta una serie di effetti collaterali, però è la tipica dimostrazione di come una terapia ben fatta in alcuni soggetti abbia un eccellente risultato. In questo caso, se la malattia era iniziale, cioè non si era ancora realizzata una cirrosi epatica, il fegato ritorna pressoché quello di prima e la persona può fare una vita assolutamente normale. E questo è un grande successo, proprio anche per non dare solo messaggi negativi. Cioè, certo. Malattie si possono curare, assolutamente si possono controllare, il cruciale è riconoscerle, perché spesso non danno assolutamente segno di loro e la gente se ne accorge casualmente facendo degli esami di routine del sangue. Ecco, di questo parleremo, quindi meglio sapere quali sono i fattori di rischio, quali sono, se siamo delle persone a rischio, e soprattutto eseguire dei controlli. Come la storia di Angela insegna, se prese per tempo si possono curare, si può tornare a fare una vita, come dice il professor Gasbarrini, assolutamente normale. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di fegato, ma in modo particolare di epatite. Ce ne sono diverse: virali, tossiche, da funghi, da agenti chimici, autoimmuni, granulomatose. Noi oggi ci focalizziamo sull'epatite B e su quella C. Professor Gasbarrini, abbiamo detto le modalità di trasmissione. Lei al momento a chi consiglierebbe di valutare la presenza eventuale di epatite B o epatite C, e come si fa? Quali sono gli esami che ci danno il quadro della situazione? Innanzitutto quello che è importante è che qui gli esami sono molto semplici, cioè sono esami del sangue, si valutano fondamentalmente gli antigeni e gli anticorpi verso questi virus che l'organismo produce, e è veramente un banale esame del sangue che fa qualsiasi laboratorio con un eccellente grado di attendibilità. È ovvio che non tutti devono fare questi esami, però diciamo che poi se uno va a vedere le persone che lo dovrebbero fare sono tante, cioè le persone che hanno dei malati di epatite nella propria famiglia, nel proprio nucleo familiare, c'è un certo rischio, un minimo rischio di trasmissione. I pazienti, come vi dicevo, le persone che hanno avuto, che ora si dice questo termine un po' butto, diciamo un'attività sessuale promiscua, però diciamo che hanno avuto partner sessuali a rischio o vari partner sessuali, perché ovviamente c'è sempre, come vi dicevo, un grado di rischio. Persone che abbiano fatto prima degli anni 90 trasfusioni di sangue, perché adesso in Italia è assolutamente sicuro fare una trasfusione di sangue su questi virus dell'epatite, però nel passato c'è stato un certo rischio. Ed è ovvio che poi c'è tutta una dinamica di persone che negli anni 60, 70, 80 hanno fatto, diciamo in qualche modo sono andati da alcune categorie, c'è questo discorso dei dentisti, adesso sono sicuri, però nel passato, negli anni 60 e 70, c'è stato un minimo, diciamo, di rischio, perché ovviamente questi virus, calcolate che in quell'epoca non si conoscevano, certo, per cui anche le dinamiche di sterilità che adesso tutti utilizzano, ma nell'epoca non erano così seguite. E poi, diciamo, fondamentalmente sono, poi ci sono categorie a rischio particolari, ovviamente chi ha fatto uso di droghe endovena nel, attualmente o nel passato, questi sono tutti soggetti ad altissimo rischio, però se voi vedete le categorie di cui stiamo parlando sono categorie purtroppo diffuse purtroppo in tanti di noi, quindi nella realtà dei fatti sono tante le persone che dovrebbero capire precocemente se possono essere infette da questi virus e lo devono capire non per colpevolizzarsi o entrare in una forma di paranoia, ma perché esistono terapie efficaci. Ecco, avere rilevare la presenza di anticorpi vuol dire che la malattia è in atto, professore? Allora, diciamo, qui dipende dai due virus. Nel virus B, avere alcuni anticorpi può voler dire aver guarito la malattia del tutto. Per farvi l'esempio, la persona vaccinata forma un anticorpo che è un anticorpo protettivo. Nel virus C dell'epatite, avere l'anticorpo non vuol dire purtroppo essere protetti, perché questo anticorpo non riesce, nella maggioranza dei casi, a proteggersi dal virus. Ma qui è facile, ormai anche i medici di medicina generale sono molto preparati su questo argomento. Diciamo, questa prima valutazione va fatta col medico di medicina generale, che sicuramente ci fa indirizzare negli esami più giusti. Professor Gasbarini, lei ha citato il vaccino per l'epatite B. Protegge per tutta la vita, così rispondiamo a tanti dei nostri ascoltatori che ci stanno mandando messaggi? Assolutamente sì, ricordiamoci che purtroppo ad oggi esiste un vaccino efficace solo sull'epatite B e non sull'epatite C. Questo vaccino protegge per tutta la vita, in alcuni casi bisogna fare dei richiami per tenere alto il titolo anticorpale. Se mi posso reintrodurre, Nicoletta, sul discorso di prima, è ovvio, io non l'ho detto, ma è ovvio che una persona che durante degli esami di controllo trova un aumento delle transaminasi, le GPT sono il vero indicatore di stato di salute del fegato, quando uno trova un aumento delle transaminasi spiegato deve, tra le altre cose, cercare il virus dell'epatite. Pino ci chiama da Bologna, buongiorno Pino, benvenuto. Sì, buongiorno, voglio chiedere al professor Gasbarini una cosa, siccome soffro di candidosi e un professore mi ha indicato di fare un trattamento con antimicotici per 10 giorni al mese per un periodo lungo, perché così quando rifiorisce chiaramente si dà un'altra, si dice tra virgolette, un'altra mazzata. Sì. Io voglio chiedere al fegato questo trattamento. Che queste mazzate fanno bene o fanno male? Grazie Pino, professor Gasbarini. Lui ha toccato un tema caldissimo. Ora qui ci siamo usciti dal discorso delle epatiti virali, siamo entrati nel discorso del rischio delle epatiti da farmaci. Come il fegato metabolizza tutti gli alimenti che noi mangiamo, il fegato metabolizza e converte tutti i farmaci che noi assumiamo, quasi tutti. Per cui ogni farmaco tecnicamente può essere tossico per il fegato. Alcuni hanno una tossicità diretta, cioè si sa che fanno male, l'esempio classico è la tachipirina, il paracetamolo a dosi alte fa male sempre al fegato, a dosi basse no. Ce ne sono altri che possono essere tossici. Questo, la domanda dell'ascoltatore è molto giusta, cioè se noi facciamo periodicamente ad alti dosi un farmaco che potenzialmente è patotossico, dobbiamo ben valutare col nostro medico se queste terapie lunghe e protratte possono danneggiare il fegato. A volte lo possono fare, fortunatamente nella maggior parte dei casi no, però dobbiamo stare attenti. Luca ci chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno, volevo buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Luca. Ci faccia la sua domanda. Volevo chiedere, io ho quasi 40 anni e sono portatore di epatite B. Volevo chiedere al dottore, al professore, se mi devo preoccupare che prima o poi questa epatite si possa trasformare in cirrosi epatica. Grazie Luca. Professor Gasbarini. Questa è una domanda molto delicata. Il portatore, vuol dire la persona che ha il virus attivo in circolo, tecnicamente deve essere molto molto cauto, perché come dicevamo queste malattie possono dare un lieve danno cronico e progressivo del fegato, che può assolutamente trasformarsi prima in epatite cronica, poi in cirrosi, e attenzione sull'epatite B, perché il virus dell'epatite B è un potente carcinogeno per il fegato, cioè può non solo determinare cirrosi ma determinare un tumore, epatocarcinoma, il tumore primitivo del fegato, per cui assolutamente il portatore di virus dell'epatite attivo, quel virus che replica e danneggia il fegato, deve assolutamente essere seguito da un epatologo e cominciare subito una terapia appropriata. Non si scappa, professore. No. Quindi assolutamente. Quali sono gli esami di controllo che deve fare un portatore di epatite B e C? Allora, diciamo che, come ho detto prima, c'è un esame banale che costa veramente pochissimo e tutti conoscono, sono le transaminasi. Le transaminasi è il marcatore più attendibile, più certo, dello stato di funzione, o meglio, più che di funzione, di danneggiamento del fegato, perché poi i marker di funzione sono altri, però è un indicatore che costa poco e che tutti possono fare ancor prima di fare la ricerca dei virus dell'epatite, un buon marcatore della funzione del fegato. Ovviamente poi esistono degli esami più sofisticati che servono a vedere se il virus è presente nel sangue, la viremia, il genotipo virale, però diciamo che di questo se ne deve occupare il medico di medicina generale insieme all'epatologo specialista, perché entriamo in un processo sequenziale, no, di esami che bisogna fare. I primi sono marcatori virali se siamo nelle fasce a rischio e valutare le transaminasi, e qui anche se non siamo nelle fasce a rischio, perché le transaminasi sono uno di quegli esami che dovrebbero entrare in tutti gli esami di routine, perché essendo il fegato un organo centrale sono varie le condizioni che lo possono danneggiare. Io vorrei leggerle qualche messaggio relativo ancora ai farmaci, poi passiamo allo stile di vita che deve tenere la persona che ha il virus dell'epatite B o C. I concezionali, gli anticoncezionali orali, cioè la pillola, a lungo tempo può danneggiare il fegato, ci scrive un ascoltatore? Allora, dando sul presupposto che tutti i farmaci concettualmente possono danneggiarlo, l'anticoncezionale è un fattore di rischio per certe malattie. Diciamo non tanto l'epatite e la cirrosi, però in alcuni soggetti può aumentare il rischio di una forma di tumore benigno del fegato che è l'adenoma. Perciò diciamo che chi fa terapie soprogestiniche deve assolutamente, prima di cominciarli e durante il periodo di somministrazione della terapia, fare dei controlli, diciamo, in qualche modo periodici. Però posso dire, sono farmaci assolutamente poi sicuri, è solo un discorso generale. Tutte le volte che uno introduce una terapia, qualsiasi essa sia, deve fare dei periodici controlli del fegato. Paolo ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Paolo. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Paolo, ci racconti. Senta, io nel 90-91 ho mangiato dei funghi tossici. Sono state anche 5 giorni in sala di eliminazione. Mannaggia Paolo, ma cosa le è venuto in mente? Ho avuto un'epatite C. Mi sono curato, no? Mi hanno dato della cura da fare. Sì. E dopo sono andato un'altra volta all'ospedale dopo tempo. E il dottore, diciamo, mi ha detto che io avevo avuto un'epatite C e l'avevo combattuto con gli anticorpi. Sì. Però adesso ogni 5-6 mesi che mi faccio dei controlli viene sempre, diciamo, le transaminasi alte. Per questa diciamo, epatite che io ho combattuto con gli anticorpi, c'è il rischio, diciamo, che, diciamo, deve stare attento. Che deve fare Paolo da Napoli, professor Gasbarrini? Quindi si è beccato un'epatite perché ha mangiato dei funghi tossici. È frequente allora, questo? Diciamo questo, i funghi possono assolutamente determinare un danneggiamento nel fegato, ovviamente alcuni di essi, cosiddetti funghi pericolosi, quelli per cui bisogna essere cautissimi e non prendere i funghi se uno non è perfettamente sicuro della provenienza e qualità. Per carità, perché danno una gravissima epatite fulminante che in molti casi è mortale senza trapianto di fegato. I funghi però, diciamo, al di là di quelli mortali, possono danneggiare il fegato. È ovvio che però una volta che il fegato ha superato il danno ed è rigenerato, generalmente c'è una completa ripresa della funzione epatica. Dato che l'ascoltatore ha parlato di anticorpi, è verosimile che lui avesse contemporaneamente una sottostante epatite virale che semplicemente lui si è accorto di avere, perché quando è stato male per i funghi ha cominciato a misurare le transaminasi e ha visto che c'era un'altra causa. Se Nicoletta posso intervenire, scusa, perché prima, sulla tablice di prima, la terapia soprogestinica non dà assolutamente adenomi. Io collegavo a un'altra dinamica che credo che in ogni caso può essere interessante per te. Le terapie ormonali che spesso fanno i bodybuilder, le persone che vogliono, capito, crescere di muscolatura, possono dare adenomi del fegato. La terapia soprogestinica no, è una terapia da controllare che però, come tutte le terapie croniche, va sempre presa sotto controllo medico, mai dal punto di vista individuale. Assolutamente. Professore, quindi sui farmaci abbiamo detto tutto, mi sembra, no? Molto bene, direi, Nico, che dici? Ci facciamo i complimenti da soli. No, mi sembra ecco, molto bella. Adesso l'argomento dei farmaci è molto sentito, professore Dalle. Sai perché, Nico? Sì. Perché adesso usiamo sempre più sul commercio farmaci nuovi, che sono più potenti, sono molto più tossici. E quindi, capisci? Allora, una marea di gente, cioè è caldissimo come argomento. Professore, quindi possiamo dare ai nostri ascoltatori questa informazione. Quando fate una terapia, fatemela consigliare dal vostro medico curante e soprattutto fatevi seguire, segnalate gli eventuali disturbi. Insomma, i farmaci servono, sono utili, ma come sempre c'è il rovescio della medaglia e in alcuni c'è un rovescione della medaglia. Professore, posso dire così? Assolutamente, ha detto molto bene Nicoletta, perché i farmaci ovviamente sono cruciali, ci fanno vivere più a lungo, ci consentono di curare bene le malattie, hanno meno effetti collaterali, però dobbiamo stare cauti. Il fegato poverino è un organo che lui non riesce a distinguere un farmaco da un alimento, meglio lo distingue bene, spesso lo metabolizza, però dobbiamo tenere presente che metabolizzandolo può creare in alcuni casi e in soggetti ovviamente geneticamente predisposti dei metaboliti tossici che lo danneggiano. Dopo quanto tempo un rapporto a rischio si può verificare se siamo stati infettati? Ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Professor Gasbarrini, dopo quanto tempo? Passa un certo periodo, perché il nostro organismo cosa fa? Quando arriva a contatto con un virus come un batterio, ma lo fa sempre, prova ad eliminarlo, no? Per cui c'è una fase in cui il virus arriva, ne arriva poco, deve replicare, il virus immunologico, il sistema immunitario prova ad eliminarlo, quindi c'è una fase come di lotta e poi uno dei due in genere vince, cioè o il virus viene tollerato dal sistema immunitario o il sistema immunitario lo elimina, per cui passa un periodo variabile tra le 4, le 6, le 8 settimane prima che noi riusciamo a vedere gli effetti, questo in generale, però è ovvio che possono essere dei virus molto molto aggressivi che in una latenza più breve di tempo possono dare un danno, però diciamo che devono passare alcune settimane, cioè dopo quindi, che uno ha avuto un rapporto sessuale a rischio due non mesi? È che se fa gli non può, il giorno dopo non riesce assolutamente a capire, ci vuole una latenza di alcune settimane. Paolo ci chiama da Milano, buongiorno. Grazie per avermi richiamato, il mio intervento si basa su due comportamenti a rischio e dei sintomi. Allora, a differenza dell'AIDS si dice che, perché c'è il rapporto orale, si dice che c'è il discorso della saliva che è protettivo, mentre per l'epatite B ho sentito dire che invece è molto predisposto questo rischio con rapporto orale. Questo è il primo comportamento. Il secondo è sulla dai rapporti sessuali. Io ho il terrore di andare dal barbiere, dal parrucchiere e mi venga fatto un taglio con la lametta. E se quello può essere un comportamento a rischio, seconda domanda. E i sintomi, avere doloretti all'addome frequenti e costanti, non so se può essere un sintomo o un'avvisaglia. Tutto qui. Grazie Paolo. Allora, professor Gasbarrini, andiamo dal sesso orale alla lametta del barbiere, in pratica, no? Facciamo un excursus, No, ovviamente anche perché qui tocchiamo tutte le possibili comportamenti delle persone, degli italiani, ma in generale della gente. Allora, partiamo dal presupposto che dall'ultimo concetto. I doloretti generalmente vogliono dire poco, hanno poco a che fare col fegato. La colecisti, le vie biliari possono dare questo tipo di problemi, ma il fegato classicamente non dà questi doloretti, almeno nella grande maggioranza dei casi, per cui non è un sintomo di allarme per il fegato. Sulla modalità di trasmissione, è vero, il virus B dell'epatite purtroppo è un virus abbastanza resistente che può in qualche modo anche essere trasmesso se uno ha dei tagli, delle ferite, cioè non necessariamente solo il rapporto sessuale tradizionale può trasmetterlo, anche la presenza di ferite in bocca, nella regione perianale, anale, possono essere dei fattori di rischio. E questo apre una seconda finestra, che è quello del discorso delle lamette, e qui apriamo una cosa che interessa moltissimo ai giovani. Piercing e tatuaggi non sono di per sé un fattore di rischio se sono fatti in locali assolutamente attrezzati, che usano solo lamette sterili, che devono essere aperte di fronte all'utente. È ovvio che se però uno usa del materiale di riuso, ma questo era come nel caso degli stupefacenti, no? Certo. Una volta con le siringhe non usa e getta, se usiamo del materiale contaminato, delle attrezzature contaminate, e quindi lamette, cose, strumenti per l'incisione, il rischio assolutamente altissimo. Questo vale anche per la manicure e la pedicure che si fanno in... Cioè bisogna, cioè tutte le volte che c'è un contatto col sangue, tecnicamente se la persona che produce, che diciamo che emette sangue, poi quel sangue va a contatto con uno strumento, quello strumento è un potenziale veicolo di trasmissione. È ovvio che però non bisogna neanche poi entrare nella paranoia, cioè usando strumenti sterili, sterilizzando bene la roba siamo assolutamente sicuri. Qui sta al buon senso di tutti noi non andare in quei locali che non usano attrezzature assolutamente sterili e ben controllate. Professore, facciamo un passo avanti. Quando e qualora l'epatite evolva in cirrosi, quali sono le novità? Ci sono delle terapie per arrestare il danno? Nicoletta, mi dà l'opportunità per dire che quello di cui parliamo non è una cosa rara nella popolazione. Gli infetti da virus dell'epatite sono quasi 3 milioni in Italia, un italiano su 17-18, e i cirrotici in Italia sono quasi 500.000, cioè un italiano su 100, quindi parliamo di altissimi numeri purtroppo. La progressione epatita cirrosi anche qua si può ancora arrestare, cioè dobbiamo tenere presente che anche nelle fasi iniziali della cirrosi, se la persona è infetta da virus B o C dell'epatite, con una terapia adeguata può bloccare la progressione di malattia. Quindi avere una cirrosi non vuol dire essere destinati chissà cosa, cioè bisogna individuarla e trattarla immediatamente. I farmaci sono assolutamente efficaci, sull'epatite C c'è qualche problemino in più quando la malattia evolve, perché l'organismo non tollera tanto la terapia, sull'epatite B invece abbiamo degli eccezionali farmaci che anche nelle cirrosi avanzate possono bloccarle o rallentarne la progressione. Allora speriamo che anche per l'epatite C riusciate a fare quello che avete fatto per la B. Questo è l'augurio. Diciamo che, sa che noi medici alla fine siamo solo il terminale, diciamo che riusciamo ad avere in commercio dei farmaci veramente efficaci che possono bloccare la replicazione di questi virus. Allora, professore, io la ringrazio per essere stato con noi, buona settimana, come posso dire, posso farvi questo augurio, buona settimana per il fegato, speriamo che così i romani e non solo siano sensibilizzati a prendersi cura di questo organo, possiamo dire unico, nel senso pieno del termine. Assolutamente sì, speriamo che tutti diventiamo un po' più liver friends, cioè amici di questo organo centrale, lo tuteliamo un po' di più nella nostra vita. Professor Gasbarrini, grazie e buona giornata a lei. Grazie, arrivederci a tutti. Vi ricordate, avevamo parlato proprio all'inizio di questa settimana di reflusso gastroesofageo insieme al professor Costamagna. E allora oggi torniamo a parlarne perché anche lo shiatsu ci dà una mano. C'è uno studio in corso, voglio farvelo raccontare dal professor Palombini, che è in linea con noi, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea. Professor Palombini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, la malattia di quel che torna su, l'ha definita qualcuno. Sì. Ecco, sì. Lo shiatsu, che cosa ci può aiutare? Come ci può aiutare? Ma guardi, tutto è nato dal fatto che abbiamo finito recentemente un bel lavoro sul mal di testa dei bambini all'ospedale Sant'Andrea, che ha dato degli ottimi risultati, e durante questo lavoro ci siamo accorti che anche i bambini con reflusso, i bambini con mal di testa e con reflusso avevano, diciamo così, un'attenuazione dei sintomi gastrici, diciamo, dovuti al reflusso gastroesofageo. Quindi proprio recentemente abbiamo iniziato, sempre al Sant'Andrea, sempre sotto la coordinazione della professoressa Maria Pia Villa, una ricerca addestrando le mamme, quindi una ricerca proprio in ospedale. Una volta a settimana io stesso vado in ospedale, ci sono un gruppo di mamme che portano i loro bambini che sono diagnosticati con ecografia, quindi un lavoro scientifico, un lavoro a tutti gli effetti di tipo appunto di ricerca universitaria. Stiamo addestrando le mamme a trattare i loro bambini e vedremo un po' cosa succede. Speriamo che ci dia gli stessi risultati del che ci ha dato col mal di testa. Senta, ma non è che può, mal di testa è stato fantastico. Professor Palombini, non è che poi in un minutino addestrare anche le mamme di Radio 24 magari alle prese con il reflusso dei loro bambini diagnosticato, e penso che siano consigli che possiamo passare anche agli adulti. Certo, cioè lo shiatsu aiuta la peristalsi intestinale, no? Si fa molto per esempio nella stipsi, quindi delle piccole pressioni possono aiutare molto questo cammino dell'intestino. Allora, molto semplicemente, con una mano molto dolce, proprio con il palmo della mano, sì, esattamente più che con il palmo, proprio con la parte delle dita della mano, sì, si fanno proprio sotto il diaframma, sappiamo dove sta il diaframma, no? Sotto le coste, sì, si fanno delle piccole pressioni muovendo le dita, si inspira dolcemente, questo se si fa autosciazzo naturalmente, se lo facciamo sui bambini si fa senza fare inspirazione ed espirazione, si inspira e si espira e si preme con le quattro dita proprio sotto è all'altezza del diaframma e si rimane un pochino con la pressione finché il diaframma, noi diciamo, non riparte. Quando ci accorgiamo che l'inspirazione riparte, allora lì lasciamo la pressione. Sì, si sente proprio. Si preme. E quando l'inspirazione riparte, dolcemente si lascia la pressione. E si fa questo per 2-3 minuti quando facciamo autoshiatsu. Allora, facciamoci dare allora anche una mano dallo shiatsu, un esercizio indicato per i bambini che possono fare anche gli adulti. Grazie professor Palombini per essere stato con noi. Buona ricerca. Arrivederci, grazie a tutti. E grazie a voi che ci avete seguito. Vi do appuntamento come sempre per domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata.